L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati. Proseguiamo questa settimana sul tema dei rifiuti. 7 giorni fa l'abbiamo affrontato dalla parte delle aziende che se ne occupano quotidianamente per quel che riguarda i rifiuti urbani, quelli speciali, nelle bonifiche. Oggi lo faremo invece con il CONAI, che ha recentemente presentato il suo bilancio di mezza estate, per così dire, cioè i dati 2012 che riguardano il recupero degli imballaggi in vari materiali, perché di questo si occupa il CONAI, e le prospettive per il 2013. Ma visto che abbiamo con noi il direttore generale del CONAI, Walter Facciotto, ne approfitteremo anche per chiedergli di rispondere alle critiche recentemente sollevate dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, quelle che riguardano il corrispettivo che i comuni, corrispettivo economico che i comuni ricevono dal consorzio per gli imballaggi. Facciotto, cominciamo però dai dati. Com'è andato il 2012? Per quello che riguarda il 2012 dobbiamo registrare che c'è stato un calo dell'immesso al consumo dei rifiuti di imballaggio del 3,8%, a dimostrazione insomma della difficoltà del mercato, quindi della crisi pesante. Per quello che riguarda i risultati di riciclo, sono comunque risultati anche questi in diminuzione, ma la diminuzione è inferiore all'immesso, perché è del 2,2%. Cioè sono stati avviati al riciclo 7.342.000 tonnellate nel 2012, appunto con una diminuzione del 2,2% rispetto all'anno precedente. Come mai c'è questa differenza tra le due? Perché la parte di raccolta differenziata e quindi di avvio al riciclo dei materiali è comunque aumentata rispetto a quello che è invece l'immesso, cioè l'effetto disaccoppiato dell'immesso, che è diminuito del 3,8, ma la raccolta differenziata non è diminuita di così tanto, cioè è comunque stata in crescita, e questo ha portato ad un risultato complessivo matematico di un incremento della percentuale di riciclo complessiva, che è del 65,6%, con un punto percentuale in più nel 2011. Se guardiamo al futuro, invece, cosa ci si può aspettare? Allora, intanto volevo dire, per quello che riguarda comunque il 2012, giusto per precisare, la quota che il consorzio tratta direttamente attraverso il consorzio di filiera è comunque del 46% dell'avvio riciclo, l'altra parte è fatta dai riciclatori indipendenti. Globalmente il risultato è quello che ho detto prima. Per il 2013 noi ci aspettiamo purtroppo un'ulteriore riduzione. Le stime parlano di un immesso al consumo che calerebbe poco più dell'1% secondo le ultime stime, mentre l'avvio al riciclo crescerebbe circa dell'1%, e quindi il risultato finale dovrebbe attestarsi ad un 67% complessivo, quindi superiore al valore 2012. Questo sempre dovuto principalmente alla crisi? Dovuto principalmente alla crisi, sì. Quindi noi stimiamo, anche se devo dire che alcuni segnali indicherebbero che l'immesso al consumo forse cala anche di più dell'1,1 che abbiamo stimato in questi giorni. Però questo lo vedremo subito dopo le vacanze, dopo il periodo estivo. Senta, se invece ci spostiamo sulla querela, diciamo, aperta con i comuni virtuosi, di cui si è parlato già in questi giorni, io credo che però il primo passo che dobbiamo fare per chiarire la situazione è spiegare agli ascoltatori come funziona, dopodiché entriamo magari un po' più nel dettaglio. Sì, il sistema CONAI, che è un consorzio senza fini di lucro istituito per legge, che impegna i produttori e gli utilizzatori di imballaggio a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero a livello nazionale dei rifiuti di imballaggio. Per fare questo il sistema si autofinanzia attraverso l'applicazione di un contributo ambientale che pagano le imprese e che forse in parte viene riversato nel prezzo di vendita poi dei prodotti sui cittadini, comunque che pagano le imprese. Questi contributi. Lei dice forse, scusi se la interrompo, lei dice forse perché questa è una decisione che spetta alle imprese. Sì, cioè, forse si riversa sui costi. Diciamo che il contributo molto spesso viene internalizzato nei costi e quindi sarebbe troppo facile se tutti i costi che le imprese sostengono poi si trasformassero in prezzi di vendita. Questo purtroppo normalmente non è così semplice. Ecco perché dico che forse in parte si trasferisce sui consumatori, ma forse in parte no. In ogni caso lo pagano le imprese. Okay. Questo è un dato, ecco, nel 2012 questo contributo dunque, è stato pari a 368 milioni di euro. Sì. Ecco, il contributo serve per garantire il raggiungimento dei risultati di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggio. Questo viene fatto attraverso un accordo che viene stipulato con l'Associazione dei Comuni Italiani che l'ANCI. L'accordo è previsto come possibilità dalla legge, cioè il sistema si può avvalere dei comuni e riconoscendo loro i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, questi imballaggi vengono conferiti al sistema consortile che li ricicla. Lo scorso anno sono stati per questa attività dei comuni sono stati riconosciuti ai comuni 323 milioni di euro, che sono circa l'85% del contributo ambientale incassato l'anno scorso. Una delle caratteristiche del sistema che è peculiare del sistema italiano è che noi garantiamo il servizio universale, cioè pur avendo già superato gli obiettivi di riciclo e di recupero stabiliti dalla legge, che sono il 55% minimo di riciclo, 60% minimo di recupero, noi siamo al 65% di riciclo e al 75% di recupero, quindi tre imballaggi su quattro di quelli immessi sul territorio nazionale sono riciclati. Ecco, pur avendo già raggiunto questo obiettivo, noi abbiamo continuato e continuiamo a ritirare tutto ciò che i comuni raccolgono e conferiscono volontariamente al sistema consortile, dalle Alpi a Lampedusa, assumendoci tutti i costi, soprattutto di logistica, per l'avvio al riciclo di questi materiali. Questa è la grande peculiarità di questo sistema, che fa la grande differenza rispetto ai sistemi europei, che in generale, una volta raggiunti gli obiettivi di legge, non raccolgono, cioè non ricevono più il materiale dai comuni, ammesso che abbiano le convenzioni con i comuni. Le cito solo un caso che è eclatante. Quando noi siamo partiti 15 anni fa, il sistema tedesco, che era il sistema di riferimento, che si chiamava Dual System, aveva come modello quello di un sistema duale, cioè parallelo all'organizzazione da parte dei comuni della raccolta dei rifiuti, cioè il DSD, che è diciamo il CONAI tedesco, semplificando, organizzava una raccolta separata con dei costi molto molto elevati. Ecco, ebbene, dopo 10 anni si sono accorti che forse fare un accordo con i comuni, pagare i maggiori oneri della raccolta differenziata organizzata dai comuni che già organizzano la raccolta dei rifiuti, forse era più conveniente per tutti. Questo è quello che noi abbiamo fatto 15 anni fa. 15 anni fa, quindi prima diciamo che ci arrivassero prima altri. Di tutti. E comunque questa diciamo piccola polemica che forse ci accompagnerà per tutta l'estate si è innescata. Perché sì. Secondo l'Associazione dei Comuni Virtuosi sì. Il corrispettivo per i comuni è un po' troppo basso. Sì. Perché rimane di quella cifra? Perché magari nonostante aumenti la raccolta non si può alzare quel contributo? Allora, intanto bisogna, ripeto, ho l'impressione che sia stata fatta una semplificazione. Perché per esempio i corrispettivi riconosciuti ai comuni sono differenziati per qualità di materiale. Più il materiale è qualitativo, più il corrispettivo è elevato. Perché lo scopo nostro non è quello di di avere semplicemente del materiale a disposizione, ma di averlo con una qualità che ne consenta il riciclo. Noi sosteniamo da sempre che la raccolta differenziata è un mezzo, non è un fine. Il fine è riciclare, e finalmente con la nuova direttiva rifiuti che è stata recepita nel nostro paese lo scorso anno, questo concetto diventa realtà, perché la nuova direttiva impone che al 2020 alcuni dei i principali materiali presenti nella raccolta urbana, tipo la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio, l'acciaio, vengano riciclati, quindi almeno per il 50%. Quindi si è fatto finalmente un passo avanti, ci si è resi conto che bisogna riciclare, non solo raccogliere, perché raccogliere ma avere una qualità scadente non serve a nulla, è una via indiretta per tornare alla discarica. Quindi allora, se noi ragioniamo in termini di miglioramento della qualità, io credo che si possa fare un ragionamento di fasce di eccellenza e quindi con corrispettivi adeguati, ma parlare semplicemente del fatto che si debbano dare più soldi, ma più soldi per che cosa? Per avere lo stesso. E poi ci sono le realtà italiane sono talmente diverse. Quindi certo, gran parte dei comuni virtuosi sono comuni piccoli, sono comuni che hanno raccolte differenziate di livello, e questo va benissimo, ma non tutti i comuni sono così. Tra l'altro bisognerebbe anche ricordare che gli imballaggi nei rifiuti urbani sono meno del 30%, sui quali comunque i comuni, come dicevo, lo scorso anno hanno preso 323 milioni di euro, e quest'anno ne prenderanno probabilmente circa 360 milioni. Sarebbe interessante sapere che cosa succede degli altri materiali presenti nei rifiuti urbani. Paga qualcuno per gli altri materiali che sono presenti nei rifiuti urbani? Ripeto, gli imballaggi sono il meno del 30% dei rifiuti urbani e sono il 4% dei rifiuti totali prodotti nel nostro paese. Quindi, questo è chiarissimo, il suo discorso è chiarissimo, come appunto diceva, si può premiare chi ha una raccolta particolarmente di qualità, che non è purtroppo diffusa in tutto il paese perché è limitata ad alcune aree, ad alcuni comuni, e come lei ricordava, adesso riassumo rapidamente perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, ma insomma, e lei ricordava insomma tutti questi aspetti per cui il CONAI non solo garantisce sempre la raccolta, ma la garantisce ovunque, e anche questo fa sì che ci siano delle spese diverse, ecco, magari rispetto ad altri paesi. Esattamente, poi noi ci occupiamo di tutti i materiali, carta, vetro, plastica, alluminio, acciaio e legno, e portare i materiali nei centri di riciclo che sono prevalentemente nel nord Italia diventa molto costoso, però noi lo facciamo anche per il piccolo comune che si convenziona con il sistema. Ecco perché dico, e l'ho ribadito anche in altre interviste, non si può semplificare troppo e dire i paesi, ma gli altri sistemi europei pagano di più. Sì, pagano di più, ma sono sistemi diversi, bisognerebbe comparare tutto quello che fanno i sistemi europei, tutto quello che fa il CONAI, allora si potrebbe anche ragionare poi. Allora, la ringrazio molto, e allora risentirci, buon lavoro. Grazie anche a lei, Oriana.